9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon 31 di gennaio, buon San Giovanni Bosco, sono torinese, per me è un santo di casa e anche oggi cominciamo con questa canzone che simbolicamente da mesi abbiamo scelto per ammonimento dei passi dietro che stiamo facendo sulla tenuta dell'euro e sullo smarrimento di alcuni punti comuni di questo continente e alcuni che chiedevano ma oggi che Simone domani dell'Eurovertice la tieni ancora? Sì, la tengo ancora e la tengo ancora perché al di là delle parole del Premier Mario Monti che ha detto l'accordo di ieri dà la certezza che l'Europa è seduta sulla roccia, a me non sembra per niente che sia così, non tanto perché all'accordo come avete appreso se avete sentito i giornali radio questa mattina o se sfogliate i giornali questa mattina si è sottratta oltre che il Regno Unito anche i cechi con l'opting out, perché c'è stata una vera e propria fino all'ultimo secondo rivolta degli slovacchi, fortissime resistenze degli ungheresi. Quanto perché dal summit di ieri sera la risposta alla domanda sulla esistenza di un meccanismo cooperativo adeguatamente finanziato e sufficientemente tempestivo da evitare un fallimento tra poco della Grecia, al quale potrebbero seguire subito dopo quello del Portogallo e così via, non è venuta. E siccome questo è il punto numero uno che da due anni di errore in errore di vertice europeo in vertice europeo e il 17° eurovertice in 24 mesi non è stato mai sanato, io continuo a tenermi questa bella musichetta. E prima di arrivare al tema che vi ho lanciato nell'esordio della trasmissione, un tema particolare, perché oggi parleremo del libro edito da Rizzoli, il cui titolo è Uscita di sicurezza, e l'autore è Giulio Tremonti, che sarà con noi tra un minuto, passo a presentarvelo. Alcuni rapidissimi flash dalla stampa internazionale oggi, in questo giorno successivo all'Eurovertice. Allora, la cosa per me più interessante è quella di cui parla il Financial Times Deutschland, secondo il quale gli Stati Uniti, l'Eurozona, cioè Berlino e Bruxelles in parole povere, e il Fondo Monetario starebbero lavorando alla creazione di un ombrello multilaterale salva stati di dotazione di 1.500 miliardi di euro. Il progetto, secondo Financial Times Deutschland, sarebbe incardinato su una fusione dell'FSF e dell'SM, che è il meccanismo che segue all'FSF e di cui è anticipata l'operatività a luglio, e questa fusione dovrebbe arrivare ad una dotazione finanziaria di 1.500 miliardi di euro, quindi in buona sostanza raddoppiando l'altezza del muro di sicurezza europeo comune. Bisogna vedere se confermate queste voci. La tesi del Financial Times è che siccome la Germania ieri all'Eurovertice ha avuto soddisfazione sulla linea del rigore europeo, a questo punto l'America e il Fondo Monetario con pugni un po' energici direbbero ai tedeschi: ora però dovete dare la risposta che il mercato aspetta vanamente da due anni. Staremo a vedere. Intanto i rendimenti dei titoli portoghesi vanno verso l'alto perché gli investitori sono preoccupati di capire se il fallimento pilotato o non pilotato della Grecia avviene immediatamente dopo. Ci troviamo con la torcia accesa in Portogallo. In Belgio c'è stato il primo sciopero generale da 20 anni in occasione dell'Eurovertice, quindi il Belgio non è che si sottragga allo scenario di contrasti sociali di cui abbiamo parlato ieri a proposito della Grecia. E anche il Financial Times oggi in un editoriale sostiene la tesi che ora che è stata accolta la tesi tedesca bisogna pensare assolutamente a innalzare il muro di sicurezza. In Germania la FDP e la SPD, entrambi, la FDP è partito un po' che è stato svuotato di insuccesso elettorale in un successo elettorale sulla linea del no agli aiuti europei ancora più duri di quelli della cancelliera Merkel, ma la singolarità è che in Germania sui giornali tedeschi sia la FDP sia la SPD all'opposizione applaudono entrambi le proposte di Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy ha cambiato linea rispetto al filogermanismo che gli ha fatto dire sempre sì nei primi 2 anni. Questo è interessante perché dal punto di vista tedesco potrebbe effettivamente preludere a un cambio, vediamo, di politica. L'inflazione tedesca naturalmente scende sotto il 2%, questo è un segno del rallentamento delle attività economiche anche in Germania, che si unisce al segno di forte rallentamento dell'ultimo trimestre dell'anno scorso. Il presidente del Consiglio di sorveglianza di Commerzbank, Klaus-Peter Müller, ha dichiarato ieri che la Grecia deve uscire dall'eurozona. I tedeschi continuano a non capire, alcuni appartenenti alle classi dirigenti tedeschi, che così facendo non fanno che accendere con nuova benzina il falò complessivo sulla mancanza dell'euro, tenuta. Intanto Paul Krugman, nel suo blog, che trovate regolarmente citato in alto a destra nella pagina dell'opinione del New York Times, propone una riflessione per la quale Italia e Gran Bretagna, a una distanza uguale oggi rispetto all'inizio della crisi, estate 2007, nel 1929, mettendo su assi temporali uguali periodi di tempo dall'inizio della crisi, 2007 per noi, oggi 1929, dimostra, dati alla mano, come sia il Regno Unito fuori dall'euro, sia l'Italia dentro l'euro, stiano molto al di sotto dei punti di ripresa del PIL che avevano rispetto all'inizio della crisi nel 1929 analoga distanza temporale. E la tesi di Paul Krugman è il rigore per il rigore, cioè gli avanzi primari fatti a botte di sanguinose repressioni fiscali, così scrive lui, e me lo avete sentito dire tante volte da qualche mese a qualche parte, come si vede non porta risultati. Ecco, fine dell'introduzione di oggi, e passo a ringraziare e a salutare l'autore del libro che è con noi oggi, cioè il professor Giulio Tremonti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io lanciando il libro ho letto una frase da pagina 162 del suo libro, che ripeto per chi non si fosse perso il lancio, ed è, io l'ho trovata una buona frase per sintetizzare tutto il ragionamento. Ho detto ai nostri ascoltatori che questo non è un libro, se gli ascoltatori cercassero i motivi dei governi Berlusconi, Lega, non si è citato niente di tutto questo. È una riflessione sul problema enorme aperto in questi anni della tenuta dei mercati finanziari, sugli errori compiuti nell'area euro, e c'è una tesi molto forte. La tesi molto forte, io ho trovato questa frase a pagina 162 per iniziare a ragionare, la ripeto: c'è un detto secondo cui i politici sanno cosa fare, ma non sanno come farsi rieleggere. È così che i popoli vengono ingannati e i politici vengono a loro volta sostituiti dai tecnici, che non hanno o pensano di non avere bisogno dei popoli. È arrivato il tempo, lei conclude, per interrompere questo circuito. E nel libro lei dà una lettura che io sintetizzo così: si è arrivati a un certo punto di fronte alla grande crisi finanziaria che è aperta di fronte a noi, e che è una crisi dovuta all'eccesso di finanza, alla finanza derivata, che lei propone dei grafici, ha continuato a crescere di molto anche in questi anni, non è affatto stata riregolata. E si era arrivati a un punto in cui forse si era capito che bisognava darsi un comune standard di regole, perché la finanza sregolata, la finanza per la pura finanza, fosse ricondotta a una cornice di legalità, con l'adozione di una cornice di legalità condivisa, deve essere condivisa a livello internazionale, quello che si chiamava e si chiama, lei chiama, il Global Legal Standard. Però di fronte a questo la finanza ha avuto la reazione con un vero e proprio colpo di coda, e i tecnici della finanza si sono reimpadroniti dell'agenda, e i politici a quel punto si sono divisi in due. O chi ne capiva così poco che ha continuato a ripetere gli slogan, le parole vuote, degli spread, a rincorrere il mercato che li metteva alla frusta, oppure chi, in parole povere, è al servizio della finanza. E quindi la finanza senza regole continua a crescere, a dominare, e a questo punto la politica, a livello nazionale come a livello europeo, ha assolutamente perso il controllo della propria agenda. È abbastanza corretta una sintesi di questo tipo, professore? Direi di sì. Se posso, come dire, provare io a fare la sintesi, è ancora di più e diverso. Quello che mi pare successo negli ultimi 20 anni è una totale modificazione del capitalismo e delle sue regole. Andiamo indietro, in Carlo Marx il capitale è il capitale fisso, è il capitale delle industrie, delle banche, che si oppone alla forza lavoro. Il capitale fisso circola in base al capitale circolante, che però è un ausiliario, un accessorio. Quello che è successo negli ultimi 20 anni in progressione, a causa di una nuova geografia, la globalizzazione, di una nuova tecnologia, la rete, internet, l'informatica, tenga conto che capitale deriva da caput, e caput vuol dire capo di bestiame, per indicare un limite fisico al capitalismo. Il vecchio capitalismo, che poi non è così vecchio, perché basta andare indietro agli anni 90 per ritrovarlo, era limitato dalla ricchezza fisica, perché era basato sulla ricchezza fisica. La nuova tecnologia informatica ha consentito di andare oltre il capitale fisico, di inventare in modo virtuale una ricchezza che non c'è, se non nella comune convenzione e credenza che ci sia. E questo ha portato la finanza derivata e deviata a essere 10 volte più del PIL, la qualcosa è abbastanza strana, perché se il PIL è il PIL, la finanza non può essere così maggiore del PIL stesso. E poi una nuova ideologia al servizio della nuova geografia e della nuova tecnologia, che è il mercatismo, cioè l'idea del dominio assoluto del denaro su tutto. Ecco che noi ci troviamo in una situazione mai vista prima nella storia, in cui il capitale circolante è diventato il capitale dominante, la dittatura del denaro, la finanza nella Repubblica Internazionale del Denaro, che domina su tutto, domina sul vecchio capitalismo, domina sugli stati, domina sui popoli, domina su tutti noi. La cosa ancora più particolare e aggiungo terrificante è che questo meccanismo di finanza non è un sistema, non è un sistema economico. Quello sovietico era un sistema economico, magari inefficiente, ma è un sistema. Questo è il caos, e cioè dire una realtà che è uscita dal controllo. Sono, come dire, stregonerie alchemiche come Faust e Mefistofele, ed è una ricchezza, un capitalismo che certamente è andato soprattutto. Lei è liberale, probabilmente chi ascolta è in gran parte liberale. La base del liberalismo è la ricchezza delle nazioni di Smith, ricchezza ma anche nazioni. Qui abbiamo la ricchezza che divora le nazioni e alla fine divorerà se stessa, perché è uscita di controllo. Anche quello che vediamo adesso di apparente tregua in Europa, che è il prodotto della ricchezza, della liquidità immessa nel sistema della banca centrale, è una variante sullo stesso fenomeno negativo. Lei prima ha la bolla, la massa tossica immobiliare del mercato privato, che passa agli stati e gli stati diventano esausti nei loro bilanci. Adesso la stessa tecnica viene applicata alle banche centrali, che stampano moneta. La domanda è: chi paga il conto? Fra un po' qualcuno dovrà pagare il conto. È un sistema che, al servizio di una finanza incontrollata, gira continuamente la cambiale e il costo a qualcun altro, e quel qualcun altro sono i popoli. E certo che devi ridurre i livelli di spesa pubblica, ma il problema è di ridurli per chi e per cosa. Sicuramente ridurli perché sono insostenibili, ma altrettanto sicuramente basta pagare al servizio di un sistema finanziario che a sua volta è fuori controllo. Allora, lei nel libro più volte, descrivendo questo processo di incapacità della politica in questi anni, dall'estate 2007, quando comincia la crisi nelle sue diverse fasi, fino ad arrivare poi alla fase della crisi dell'eurotenuta, del debito pubblico europeo, della sua solvibilità, però lei usa dei termini taglienti per descrivere la finanza incontrollata e l'espressione, diciamo, tecnico-politica della finanza, che mette una politica inconsapevole nell'angolo, perché lei usa termini del tipo fascismo bianco. Ma guardi, quello che è successo dopo la globalizzazione, la scelta della globalizzazione, in sé irreversibile la globalizzazione, ma la scelta di farla così in fretta, in questo modo, dal 94 quando viene lanciato il processo del World Trade. Poi la Cina nel 2001. Esatto. In pochissimi anni è cambiata la struttura e la velocità del mondo, e questa è stata l'ultima grande scelta della politica occidentale. Positiva o no? Negativa in assoluto per i tempi e i metodi, positiva la globalizzazione è fenomeno irreversibile, ma la scelta di concentrare e far esplodere la storia in pochi anni, a mio parere, è stata una scelta, come aprire il vaso di Pandora. Ci sono tempi più lunghi e metodi più saggi di quelli forsennati applicati in quegli anni dalle ideologie dominanti in quel periodo. Fatta questa grandissima scelta, giusta o sbagliata, ma certamente scelta politica, poi la politica è scomparsa. È scomparsa perché sono arrivate sulla scena del mondo e della storia altre forze, ed erano le forze delle multinazionali, della finanza, le ideologie del mercato, che hanno messo il mercato sopra lo Stato, e il mercato poi non solo sopra lo Stato ma anche sopra i popoli, come se il mercato fosse la fabbrica assoluta della politica possibile e corretta e migliore, positiva e progressiva. Il mercato è un pezzo della realtà, non è tutto e non è la dominante. Questa è, secondo me, la visione liberale: ricchezza ma anche nazioni, gli interessi ma anche le regole comuni del vivere civile. Tutto questo in 20 anni ha fatto degradare la politica dal ruolo, i politici, dal ruolo che hanno avuto storicamente, nel bene o nel male, un ruolo importante, ha fatto degradare e declinata la curva della politica, sono anche degradate le specie e le figure politiche, con alcune eccezioni, perché erano dominanti invece le forze del mercato e i protagonisti del mercato. Fino a che le cose sono andate bene per 20 anni, nessuno si è accorto di quello che era successo, non se ne sono accorti i cittadini, ce ne accorgiamo adesso, e cioè dire si è creato uno spaventoso vuoto di capacità di capire e di intervenire per il bene comune. E noi stiamo adesso ancora vedendo politiche che sono derivate da una realtà su cui noi agiamo dopo e non prima, una realtà in cui confondiamo la medicina con la malattia, in cui fondamentalmente paghiamo senza capire che paghiamo per continuare a stare in un sistema che non è un sistema ma un caos. E che cosa vuol dire questo? Non è che devi immaginare un mondo che non c'è, basta tornare al mondo che c'era negli anni 90, quando fondamentalmente le banche erano divise tra banche industriali, commerciali, che davano i soldi ai cittadini, alle imprese, alle comunità, e banche speculative, che facevano la speculazione per se stesse, pagandone conto. Un mondo nel quale erano vietati i derivati o non erano legittimati nel modo in cui sono adesso, un mondo in cui c'era un'economia che era basata sicuramente sulla domanda interna, sicuramente sull'export, ma anche investimenti per beni di interesse collettivo e comune, grandi opere pubbliche, per usare un antico linguaggio. Ecco, io credo che noi dobbiamo capire quello che è successo, e cioè dire non stare ad analizzare singoli fatti, singoli anni, singoli casi, aree, l'Europa, ma guardare nell'insieme come è cambiata la struttura, la velocità del mondo, cosa produce, fare una valutazione. E guardi, i popoli lo stanno capendo. E devo dire, credo, lei ha citato la SPD, ieri credo i socialisti tedeschi hanno applicato, ma devo verificarlo, una formula, hanno detto nella prossima campagna elettorale il nostro avversario non è la cancelleria, ma è la finanza internazionale. Confermo, anch'io l'ho letto sui giornali. Questo è impressionante, e devo dire, io ne traggo una ragione di particolare interesse, è esattamente quello che è scritto nel libro. E lo stesso ha detto in Francia il presidente, il candidato alla presidenza socialista Hollande. Ha detto: il mio avversario è Sarkozy, ma è anche la finanza internazionale. Ecco, io credo che prima i popoli lo avvertono, poi comincia a, come dire, a schiodarsi anche la macchina della politica, dei partiti, che pone delle posizioni radicalmente nuove. Finora la posizione era a valle di questo, cioè dire, legittimava ed eseguiva ordini che venivano da fuori, subendo una realtà, ripeto, forse dovrebbe essere chiaro, non sta in piedi questo sistema, perché a un certo punto la cambiale qualcuno la deve pagare, e ha cominciato a girare Mefistofele, è passata dalla massa tossica privata, bancaria, finanziaria, agli stati che hanno pagato, e quindi i cittadini hanno pagato, e adesso passa dagli stati alle banche centrali che stampano moneta, ma anche qui non è che pagano le banche, pagano i cittadini. Stampare moneta è una tecnica fortemente discutibile in assoluto, ma se stampi moneta per salvare la finanza non è discutibile, è ancora peggio. Ed è un giro che ricorda quello della finanza di Madoff a New York, e cioè dire, alla fine qualcuno paga, qualcuno ci rimette. Allora, io le devo dire, lei ha citato appunto come elementi politicamente interessanti, quasi di speranza, candidati socialisti, e questo è uno dei punti di fondo per chi poi si trova ad averlo avuto come protagonista della vita italiana per tanti anni, negli anni della Seconda Repubblica. Perché alcuni dicono: ma è possibile mai che il professor Tremonti, nella crisi, tornando a dire Stato, Stato, Stato, e l'ultimo capitolo, quello nel quale fa la sintesi delle sue proposte in questo libro che ha il titolo, lo ricordo ancora una volta, Uscita di sicurezza, è un titolo inequivoco, perché il titolo dice: obiettivo per questa ripresa di controllo da parte della politica verso gli eccessi della finanza è, due punti, mettere la finanza sotto lo Stato, mettere lo Stato sopra la finanza. Più chiaro di così non potrebbe essere. Però alcuni dicono: ma come, è lo stesso professor Tremonti che scriveva libri tanti anni fa, quando ci faceva sperare che facesse la rivoluzione fiscale, che abbattesse lo Stato, che abbattesse la pressione, che spiegava a tutti per la prima volta finalmente in Italia come si era rotta la catena, quella catena del vecchio Stato nazionale, la catena di continuità Stato, territorio, controllo della ricchezza. Il capitale era mobile, e quindi o lo Stato lo capiva che doveva diminuire le sue pretese, tassare il tassabile, ma rinunciando a rincorrere ogni minima forma di reddito con questa idea della progressività a cui il capitale libero si sottraeva. Ecco, tra quella visione di Giulio Tremonti allora e quello che poi abbiamo visto adesso in questi anni, e ancora di più in questo libro che dice Stato sopra, finanza sotto, che spiegazione c'è? Lei a un certo punto nel libro dice, rispondendo all'obiezione del liberale classico, cioè mettiamo il liberale alla Giannino, che dice: no, io penso che l'obiettivo vero sia comunque approfittare della crisi per far dimagrire lo Stato inefficiente. Lei dice: cari ragazzi, vi siete persi un passaggio, cioè quando io scrivo quelle cose è evidente che si trattava di acquisire la consapevolezza di una globalizzazione che arrivava, ma gli eccessi di questa globalizzazione, il predominio della finanza, è come se avessero sottratto, non alle pretese eccessive della vecchia sovranità nazionale, ma la finanza si è autosottratta a qualunque possibile cornice di legalità, perché qualunque tentativo anche internazionale di concordare regole nuove col Financial Stability Board è fallito, e quindi il problema è che noi o riradichiamo una legalità a livello di Stato nazionale o a livello di unità europea, oppure voi cari liberali diventate dei mercatisti del cavolo, perché invece di tagliare le unghie allo Stato semplicemente rinunciate a qualunque redine, a qualunque controllo sulla finanza internazionale che ridurrà tutti alla miseria. È un po' questa la risposta all'obiezione nostra liberale? Credo che la risposta l'ha data proprio lei, ma vorrei fare una specifica. Quando uno analizza e descrive un fenomeno, può essere che fa l'analisi giusta o sbagliata, la descrizione giusta o sbagliata, ma è sul piano delle analisi, è sul piano dell'essere, non del dover essere o del voler essere. Quando io tantissimi anni fa, nel 91-92, ho cominciato a scrivere «Si è spezzata la catena Stato, territorio, ricchezza» e questo determina una erosione del potere degli stati-nazione classici e avrà un impatto politico straordinario. Io analizzavo la realtà, non è che la volevo, non è che applaudivo, mi limitavo a dire che stava succedendo quella roba lì e in effetti è radicalmente successa. Quindi credo che chiunque sia liberale o non liberale deve cominciare a separare i fatti dai desideri, l'essere da dover essere. Quindi devo dire, questo è uno dei vizi più forti che c'è nella politica e soprattutto nella cultura italiana. Quando uno fa un'analisi gliela attribuisci. Ora, quella cascata di fenomeni non l'ho causata io, non l'ho voluta io, mi sono limitato a descriverla. Ricordo che a un certo punto con Cassese, Treu e Galgano abbiamo scritto un libro che era intitolato Nazioni senza ricchezza e ricchezza senza nazioni. Questo chiasmo, questa inversione rappresentava esattamente quello che stava succedendo e sono autori illustri di posizioni politico, ideologiche radicalmente diverse. Nazioni senza ricchezza e ricchezza senza nazioni, al principio degli anni 90. E nessuno di noi voleva quello, ma tutti insieme abbiamo, dai vari punti di vista, cercato di descrivere. Eccoci tornati qua in studio, stiamo parlando con Giulio Tremonti, l'autore del libro Rizzoli che trovate in tutte le librerie, uscita di sicurezza, è un libro in cui c'è, oltre all'illustrazione, con una radicale, tagliente sincerità di questa tesi che stiamo tentando di far spiegare all'autore, quella per la quale la crisi è l'espressione da anni di una presa del potere da parte della finanza incontrollata in tutto il mondo, fino a definirla un fascismo bianco, che travolge una politica per metà ignara e per l'altra metà incapace di creare argini nuovi e adeguati a un nuovo contesto di finanza globalizzata che si sottrae a ogni legalità, a ogni anzi prescrittività normativa, sia essa quella dei vecchi ambiti nazionali che internazionali. Alla fine del libro la cosa tra le tante interessante è che c'è questo appello diretto da parte dell'autore, è un appello diretto ai lettori e si dice a chiunque di voi volesse continuare il dibattito, approfondire o mandare avanti progetti collegati ai temi che sono affrontati in questo libro, c'è un appello diretto e c'è scritto testualmente: se volete potete comunque contribuire, allungare l'elenco dei progetti, interagire con questo libro sul sito www.giuliotremonti.it. Professore, ma non è che dobbiamo capire che lei A continua a fare politica, B ha rilasciato delle dichiarazioni e interviste, nel libro non c'è, ho già avvisato che nel libro non si parla né della politica recente di quello che avete fatto nel governo né della politica attuale, cioè giudizi su Monti, sulle elezioni non ci sono, però non è che dalla somma di questo appello finale e da quello che ha detto nelle recenti interviste a proposito del fatto che lei non vede più spazio per i partiti personali, insomma per liste Berlusconi, che bisogna immaginare che anche questo libro sia un modo per cui lei pensa di poter riorganizzare la sua presenza in politica con un nuovo seguito, magari altrove o no? Ma guardi, intanto ancora indietro rispetto a quello che ha detto lei, quando uno nota che è avvenuta una modificazione totale, radicale nelle strutture dell'esistenza, del mondo e naturalmente anche della vita di tutti noi, perché è avvenuta questa assoluta, l'avvento del mercato finanziario con gli spread il cui crepitio modifica tutti i profili dell'esistenza, della politica, ho detto, primo, non è che uno lo vuole, secondo, è chiaro che se tu pensi che sia il mondo giusto, ti basta lasciare fare a questo sistema, se pensi che non sia il modo giusto lo devi cambiare. Quando dice lo Stato sopra la finanza, vogliamo usare un linguaggio liberale? Mettiamo la nazione, ricchezza e nazioni, la ricchezza delle nazioni, invece di Stato metti nazioni e hai esattamente quello che stava in Adamo Smith e quello che dovrebbe essere adesso. Non puoi avere la finanza che fa tutto e la ricchezza che fa tutto, ci vuole la ricchezza anche delle nazioni. Diciamo che adesso si è esagerato, perché è stata cancellata, anzi peggio, non solo è stato cancellato il ruolo delle nazioni, della politica, dei valori civili comuni, ma tutto questo è al servizio della finanza. Questo non è accettabile. Io non so come faccia un liberale o una persona civile ad accettarlo. Non è possibile che la finanza sta sopra e noi tutti siamo sotto, come se fosse una parte dell'esistente e della divinità imprescindibile, la finanza. Non è assolutamente così, non è mai stato così nella storia dell'umanità. È come se fosse una divinità alla quale prestiamo obbedienza, attenzione e cieca dedizione e paurosa considerazione di quello che vuole che noi facciamo. Adesso basta, è ora di farla finita. E quando, ripeto, dico gli stati sopra, naturalmente non sono in Europa, per esempio, azioni dei singoli stati nazionali, deve essere l'Europa, ma, ripeto, un'inversione. I valori civili, l'interesse comune, la visione generale, che è certamente parte della cultura e della tecnica liberale, devono stare sopra. Non è mai stato nella storia che la finanza sta sopra noi tutti. E questo è l'altro punto. Poi quando uno nota che nei programmi dei partiti socialisti ci sono le stesse idee, cominciano a esserci in Francia, in Germania, beh, non è che uno lo vuole o è diventato iscritto a quei partiti. Anche qui cerchiamo di separare quello che è da quello che non è. Uno constata quello, uno constata che è così. Constato che in Italia non se ne parla affatto e sono invece i punti fondamentali della politica. Poi non è che uno ha il diritto d'autore. Io il libro ho cominciato a scriverlo nell'autunno, adesso siamo alla fine di gennaio, c'è il libro e vengono fuori quei programmi politici. Io lo trovo di grandissimo interesse, perché diventerà la parte essenziale, fondamentale del dibattito politico in Europa. Nel libro non c'è la parola Italia, o meglio, c'è solo quando si parla della lettera apostolica Banca Centrale Europea, Banca d'Italia. Ma che è stato un passaggio decisivo, perché il centrodestra poi alla fine, insomma, io ho spiegai all'epoca agli ascoltatori che lei alzava il piede, per così dire, cioè disse vabbè, se arriviamo al punto che mi deve dire la BCE che cosa fare, andiamo a casa che è meglio. Poi... Ma guardi, la storia di questo periodo non c'è ancora e dovrà essere poi in un qualche modo finita, calata la polvere, sollevata la nebbia, poi si capirà che cosa è successo in questo periodo, ma direi insomma non è che è il punto centrale. Non c'è nel libro la parola Italia, c'è una serie di altre parole e per non sembrare visionario, io nel libro immagino che si debba e si possa fare quello che è stato fatto dopo la grande crisi del 29 in America da Roosevelt, cioè dire New Deal. Roosevelt ha separato con la legge Glass-Steagall, che è stata abrogata negli anni 90, l'attività di banca al servizio dell'economia reale dall'attività speculativa, ha vietato una serie di contratti e di operazioni speculative, ha introdotto un criterio, un codice di regole con meccanismi di vigilanza e ha avviato un enorme programma di investimenti per opere pubbliche. Lo ha fatto negli Stati Uniti d'America a livello nazionale, siamo in Europa, è difficile immaginare che questo possa essere fatto solo in uno Stato, è fondamentale che comincino a circolare queste idee e poi dopo che si consolidi negli Stati e in Europa un'opinione mirata a questo. Lei dice la politica, io sono assolutamente convinto di queste idee, sono convinto che è arrivato il momento per affermarle, per diffonderle e c'è nel libro e poi è logico, no, non basta in un singolo Stato, devi avere una circolazione europea. E il fatto che circolino in questo modo lo trovo assolutamente di enorme interesse, non mi aspettavo così in fretta. Cosa vuol dire? Che i popoli capiscono prima di tanti. Bene, ora abbiamo il minuto di informazione sulla circolazione stradale. Io devo dirle però una cosa, quindi butto giù la domanda per quando rientriamo in onda. Il problema è che agli italiani queste cose, io lo vedo dai messaggi che arrivano, a molti da una parte capiscono, perché dicono in effetti banchieri e finanza internazionale si vede che non prendono mai botte, dall'altra dicono sì, ma noi qua in realtà in questi anni se chiude tanta impresa, se cresce la disoccupazione, se siamo sempre più nei guai, se siamo ai blitz della finanza dovunque, e perché dai tempi di Amato, poi quando si doveva trattare di entrare nell'euro con Prodi, poi quando siamo andati ogni volta nell'angolino perché non eravamo abbastanza virtuosi, quindi sia sotto Visco, Padoa-Schioppa, sia quando è successo col centrodestra con Tremonti e adesso ancora con Monti, quello che avviene è sempre la stessa cosa, che uno Stato sempre pesante in Italia, 52% del PIL, si piglia ancora più tasse e ci dice che quella è l'unica maniera perché dobbiamo fare virtù. Rispetto a questo, questa proposta di Tremonti è fatta con più rigore, molto meno Stato, cessioni pubbliche, oppure con più tasse e con la politica che comanda ancora di più? Perché in quel caso è un po' diverso, quindi domanda un po' concreta ma calata nella realtà italiana di queste manovre su manovre su manovre, è quello che arriva alla gente, stangate, più tasse e la finanza dovunque. Mentre riparte i Doors che abbassiamo, professor Tremonti, a chi chiede, insomma, noi abbiamo visto sempre le cose fiscali che si appesantivano su di noi, nel frattempo vincesse la politica o vincesse la banca, era sempre la stessa cosa in Italia. Su quello il messaggio da dare alla gente qual è? Allora, torno a specificare. Il libro, credo che sia fondamentale e importante definirlo, il libro parla dell'Europa, del mondo e non parla dell'Italia. E io non sono qui adesso per fare discussioni sull'Italia, che naturalmente non mancherà l'occasione per farle, il modo e il tempo. E credo che sia importante capire l'origine. Vede, se il mondo si è globalizzato e unificato, è inutile poi continuare a tornare sul singolo punto, cioè dire sul particolare. O hai una visione generale oppure continui a crollare come è stato finora. Va bene? Quindi benissimo la discussione sull'Italia, adesso se vuole la faccio, però se uno continua a cortocircuitare il particolare col generale, se il particolare non funziona allora vuol dire che il generale non importa, allora vuol dire che continua una spirale distruttiva come è stato. Quindi in generale invece lei dice la cosa importante è che adesso vedere di collegare in Europa tutti quelli che iniziano a prendere questa consapevolezza nuova. Esattamente, se uno non capisce che è avvenuta una rotazione, un'inversione del mondo e non cerca di raddrizzare, il mondo non è mica facile, ma se uno almeno non capisce e non entra, lei dice resistenza al fascismo bianco, metta giù così, al fascismo finanziario, ma se uno non capisce quello che è successo, beh, continuerà a subire e a pagare per conto della finanza, questo è dato di fondo, è enormemente difficile, è particolarmente ambizioso tutto questo, io ho enorme fiducia nel buon senso della gente. Naturalmente lei dice ok, questa è la visione generale, poi veniamo al particolare. Guardi, quello che è successo nei singoli paesi va ricostruito paese per paese, lei ha fatto una veloce storia di quello che è successo in Italia, io gliela metto giù così. Oggi passa al vertice europeo la disciplina di bilancio ed è una versione diciamo riduttiva di quello che era già stato definito nel vertice del maggio del 2010. È stata un po' come la tela di Penelope, allora si è tessuta una tela che era fondamentale e in effetti tutto cominciò a cambiare, i mercati finanziari, la politica, l'Europa che tornava in una versione politica, fu allora che fu messo il Fondo Europeo Salva Stati, fu decisa una politica di rigore comune, poi tutto si è attraverso vertici continui, tipo Società delle Nazioni, si disfava di notte quello che si era tessuto di giorno, adesso siamo tornati al punto di prima. Ebbene, è evidente che la politica di bilancio di rigore fatta sopra, se viene, come dire, imposta a un continente che ha enormi differenziali economici, demografici, geografici, non funziona, anzi funziona nel contrario, cioè causa ulteriore depressione, causa ulteriore stagnazione e soprattutto, cosa che non viene considerata, causerà progressive tensioni e torsioni sociali. Vedi la Grecia, altro che... Ci saranno fenomeni di contagio, non solo finanziario, ma anche sociale, di rivolta, di reazione. Questa è la dimensione che a volte a Bruxelles non viene considerata, ma in realtà è una delle dimensioni fondamentali per la vita politica civile e anche per l'economia, perché la domanda interna poi risente di tutto questo. Allora, se lei ha sopra una rigorosa disciplina e sotto ha queste differenze economiche, sociali e generazionali fondamentali e disuguaglianze, lei ha un sistema che non sta in piedi. Allora, qual è uno degli aspetti dell'uscita di sicurezza che si presta a rispondere alla sua domanda? È quello degli eurobond, e cioè dire lanciare enormi e possibili piani di opere pubbliche. Se lei pensa che il modello economico che abbiamo sia basato sui consumi e sull'export, sbaglia, perché tutte le economie si basano anche su una terza gamba, che da noi deve e può essere grandi investimenti in opere pubbliche finanziati con gli eurobond. L'idea di eurobond è del 1993 ed è di un grande politico francese, Delors. Delors, io a questo punto la devo interrompere perché il tempo chiederebbe altri approfondimenti, ma siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sono tre le proposte: oltre agli eurobond, alla fine del libro troverete la separazione appunto tra banche commerciali e banche di investimento speculativi e un trattato internazionale multilaterale. Vi leggo quest'ultima frase: sinceramente sono convinto che le potenze bancarie siano più pericolose degli eserciti in campo, è Thomas Jefferson, ed è questa la via che indica Giulio Tremonti per chi lo seguirà in questa impostazione, in questa battaglia che per la politica di domani e anche per le prossime elezioni. Datemi retta. Radio 24, la passione si sente.